24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui, buongiorno cari ascoltatori, sono le 7:20 minuti e riparte una settimana di 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9, ci trovate anche su Facebook, così 24 mattino, anche su Twitter, @24mattino, ci sono anch'io, @AlinoMilan su Twitter, c'è il nostro Carmelo Lauricella oggi in regia, l'alpino l'abbiamo abbandonato da qualche parte, su qualche campo. Ebbene, staremo in diretta fino alle 9. Oggi avremo ospite l'avvocato difensore di Giovanni Vantaggiato alle 8:20, il killer di Brindisi. Sarà nostro ospite il suo avvocato. Poi parleremo di fisco, scontrini e scuole elementari, un'iniziativa che ha fatto discutere e fa discutere la promozione della legalità nelle scuole elementari con la, per esempio c'è la fisco strocca, ve la faremo sentire, la filastrocca per i bambini, per insegnare ai bambini fin da quando sono piccoli a chiedere lo scontrino quando prendono il gelato. Qualche giornale come Libero ha ironizzato duramente dicendo arrivano i balilla del fisco. È un'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate. Sarà con noi anche Oscar Giannino. Vi facciamo questo regalo di lunedì dalle 8:30. È lunedì 11 giugno, intanto diamo uno sguardo ai titoli. L'edizione del Sole 24 Ore del lunedì apre con questo titolo: per le società dei comuni un debito da 34 miliardi in tre anni, rosso su del 12%, mentre il fatturato resta fermo. L'apertura di tutti i quotidiani, degli altri quotidiani, è sulla vicenda Spagna. Insomma, la Spagna che è vicina al salvataggio grazie anche ai soldi dell'Unione Europea. Il conto per salvare l'euro, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, aiuti a Madrid, contagio evitato. Per La Stampa, sviluppo, si cercano 100 milioni, il decreto sviluppo in Italia. Il Messaggero, Madrid alla prova mercati. Il Giornale invece, la beffa dei professori, si vergognano dell'IMU, il ministro dell'interno Cancellieri rinnega la tassa e dice l'abbiamo trovata. Mentre l'Unità apre sulle elezioni in Francia, il titolo in Francia rivince la sinistra. Questi alcuni dei titoli d'apertura, voglio andare subito alle notizie, alcune curiose le trovate. Domani è un giorno importante per la Spending Review, questa supercazzola che ci stanno propinando da un po' di tempo. Pare arrivi a uno snodo importante, uno snodo importantissimo, perché c'è il Consiglio interministeriale in cui Mario Monti parlerà, riunirà tutti i vari ministeri per cercare di capire dove si deve tagliare. Il compito del supercommissario Bondi è quello di tagliare fino a, pare, 5 miliardi di euro entro l'estate. Ci sono vari articoli su questo. Beh, intanto una spending review che vede protagonisti un po' tutti. Sul Messaggero oggi c'è la notizia più interessante: nuovi tagli a Montecitorio, poi dicono la casta. Eccolo qua, vi propino questa bella notizia che sicuramente vi allieterà lunedì. Chiude il ristorante dei deputati. Governo, domani vertice Monti Bondi sulla spending review. La notizia è questa, la dà il Messaggero. La Camera è pronta a tagliare altri 150 milioni di euro nei prossimi tre anni e entro il 30 giugno il presidente Fini dovrà arrivare dovrà arrivare da parte dei questori la lista che indica quali sono le voci dove fare tagli. Dunque, questa è una buona notizia, eh? 150 milioni di tagli che i questori devono individuare. I questori sono i tre deputati della Camera che fanno anche, tengono tutti i conti. Da dove si pensa di togliere questi 150 milioni? Allora, 50 milioni verranno tolti così, 30 dal fondo di previdenza dei deputati, in pratica le liquidazioni, altri 20 dalla riduzione di soldi da destinare ai gruppi e ad altre rinunce, per esempio il ristorante. Ed ecco qui che allora Mario Aiello in prima pagina scrive l'articolo: il De Profundis per il ristorante della Camera si trasformerà in una mensa self-service. tutti in fila al self-service Montecitorio, 12 euro e col piatto in mano, addio ai pasti serviti in guanti bianchi nel ristorante della Camera, quel luogo mitico della politica, apparecchiata a tavola da cui ci si alzava con la pancia piena e talvolta con un accordo tra partiti nello stomaco. Insomma, i deputati passano al vassoio e alle tovagliette di carta come normali travette in una mensa aziendale. Tra pochi mesi saranno costretti a rinunciare alla comodità dei camerieri che li coccolano. Ancora un goccio di vino, onorevole, questo lo offre la casa, si sentiva dire, ma adesso non più. Il self-service al posto del ristorante è una dura rinuncia che comincerà dalla prossima legislatura, ma serve subito per non nutrire e non ingrassare ulteriormente il corpaccione dell'antipolitica che sulla retorica dell'onorevole magna magna e dei forchettoni a sbafo del contribuente ha basato la propria fortuna. E allora la mensa a 12 euro funzionerà così: leader e peones potranno scegliere tra tre primi piatti, tre secondi piatti più contorno e frutta, e la cifra sarà quella. La vera novità è che il conto verrà interamente pagato di tasca propria dal deputato, così il questore della Camera Antonio Mazzocchi, che ha proposto questo nuovo sistema votato all'unanimità, anche se Mario Aiello dice attenzione alle retromarce all'ultimo momento, però votato all'unanimità, e sarà pure un luogo di socializzazione. Qui Mario Aiello si lascia andare nella fantasia. Silvio Berlusconi e la donna delle pulizie mangeranno gomito a gomito e sfileranno insieme davanti al bancone. Prima lei, cavaliere, mi passi il formaggio, signora, vuole che glielo passi? Ecco qui. Perché nella nuova mensa non ci saranno più il luogo dove mangeranno i deputati e il luogo dove mangeranno i dipendenti, tutti insieme, stessi tavoli, medesimi menù, file comuni. Attenzione però, il questore Mazzocchi ha detto ma... se qualcuno vuol fare lo splendido, ci sarà l'angolo deluxe con le ostriche e lo champagne. E chi lo desidera le potrà avere a prezzi normali, ovviamente, cioè pagandole come ostriche e champagne, mica a 3 euro come prima. Chi lo vuole, vuol fare lo splendido, anche se qui ovviamente chi si spingerà a prendere ostriche e champagne mentre tutti gli altri mangiano a 12 euro alla mensa. Vabbè, comunque, primi effetti della spending review: chiuderà il ristorante della Camera, cioè, crollerà tutto un mito di un certo giornalismo che andava a vedere cosa mangiavano i deputati. E al Senato, chiudiamolo anche lì, facciamo la mensa, attendiamo il Senato allora a capire se si adegueranno alla Camera. A proposito di spending review o di revisione della spesa, meglio, visto che siamo in Italia, i ministeri spendono 1 miliardo al giorno. Questo titolo lo trovate a pagina 6 del Corriere della Sera. Antonella Baccaro racconta come lo studio del Senato, del servizio del bilancio del Senato, ha analizzato tutte le voci di spesa dei ministeri. Sono 283 miliardi comprensivi di stipendi sui 779 complessivi spesi dallo Stato, e metà delle risorse, cioè 108 miliardi, servono al semplice funzionamento della macchina. Dunque i ministeri spendono 1 miliardo al giorno. Ogni anno sono previste 283 miliardi circa, la metà serve solo a farli funzionare. Questo è il titolo. Ce ne sono poi 36 miliardi che vanno in conto capitale. Insomma, questo studio, anche questo, rientra nel tema spending review. Così come La Stampa racconta, pagina 5, la spending review non risparmia l'arma. Il comando generale dei carabinieri prevede tagli per almeno 113 milioni di euro. Oh, ma qua sembra una cosa seria, tutti pronti a tagliare, almeno sui titoli di carta, sui titoli dei giornali. Ci sono previsioni di tagli, tagli, tagli, quelli che si fanno la mensa. Attendiamo con ottimismo, domani c'è una riunione importante. Anche il Sole 24 Ore, a pagina 2, si concentra verso i tagli, la spending review. Secondo il Sole, Valeria Uva, una delle scelte che verranno fatte ormai per legge è quello di far passare tutti gli acquisti della pubblica amministrazione attraverso la Consip. Shopping obbligato allo sportello Consip per i ministeri, le ASL, i comuni. Il decreto sulla spending review approvato in prima lettura al Senato prevede questo, dunque, che se non si trova diciamo, la fornitura, non si può andare sul mercato, ma bisogna andare da parte delle pubbliche amministrazioni, tutti passare attraverso la centrale di acquisto della Consip. Del resto, studi hanno dimostrato che con il metodo Consip si arriva a un risparmio sui prezzi ottenibili che è in media del 19%. Su questo in passato il Sole 24 Ore aveva fatto tutto dei dati che dimostravano questo, come passare attraverso un acquisto centralizzato porta a un risparmio del 19% rispetto ad andare sul mercato da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi per legge ora pare si voglia centralizzare tutta questa vendita di forniture attraverso la Consip. Messa così, sembra che da domani abbiamo recuperato magari quei 100 milioni che servono per fare il decreto sviluppo, no? A questo punto, no? Visto che il titolo della stampa è questo, taglia di qui, taglia di là, taglia di su, tutti pronti a tagliare, stiamo a vedere, attendiamo, intanto attendiamo 5 minuti. Allora, alle 7:36 minuti, molti giornali si concentrano su quello che sta succedendo in Spagna, che possiamo tradurla così. Per il salvataggio della Spagna, l'Eurogruppo, l'Europa, l'Unione Europea è pronta a dare fino a 100 miliardi di euro. 100 miliardi di euro. E quelli uno striminzito pareggio ci hanno fatto fare. Si potrebbe commentare con ironia. Scherzi a parte, se volete, a pagina 3 del Corriere della Sera, aiuti ai mercati, anatomia del salvataggio spagnolo. Ci sono tutte le domande e risposte di quello che succede. Le domande sono: perché l'Unione Europea presterà 100 miliardi di euro a tassi agevolati alle banche spagnole? Attenzione, appunto, perché non vanno agli stati, ma 100 miliardi a tassi agevolati alle banche spagnole. In questo modo si cerca di difendere l'euro dagli attacchi della speculazione internazionale, evitando che il contagio possa trasferirsi ad altri paesi aderenti alla moneta unica. Una formula diversa dunque rispetto a quella adottata per Grecia e Portogallo, dove gli aiuti sono stati assegnati direttamente agli stati. La Spagna sconta l'esposizione di molte sue banche nei prestiti al settore immobiliare, che hanno provocato un'enorme bolla speculativa fondata sui prezzi delle case in continua ascesa. La seconda domanda: la decisione dell'Eurogruppo da chi verrà pagata e come i paesi europei si divideranno gli oneri? Le prime stime individuano in una quarantina di miliardi la somma urgente per salvare Bankia, la banca più indebitata in Spagna, per la quale si conteggia una necessità finanziaria pari a circa 19 miliardi di euro. Ma verifiche tecniche più approfondite sono attese entro il 21 giugno. E dunque varie analisi fanno temere che la stima iniziale di 40 miliardi potrebbe almeno raddoppiare, arrivare a 80. Così si è fissato prudenzialmente fino a 100 miliardi. Ecco perché si arriva alla somma, i soldi che verranno elargiti dal fondo salva stati europeo finanziato dai governi dell'Eurozona, dunque anche dall'Italia. Questo prestito non aumenterà il debito spagnolo? Bene, l'Eurogruppo straordinario di sabato, i 17 ministri finanziari hanno definito solo un compromesso politico a grandi linee, racconta sempre Ivo Caizzi, che spiega sul Corriere della Sera. Nella prossima riunione, in programma il 21 giugno, si dovrebbe passare a definire le condizioni tecniche dei prestiti agevolati fino a 100 miliardi. Perché appunto questi soldi poi vanno al fondo per le ristrutturazioni bancarie e non direttamente al governo spagnolo? I piani di salvataggio per Grecia, Spagna e Irlanda sono accompagnati dall'impegno dei rispettivi governi di attuare una serie di misure di austerità. Il governo di centrodestra di Mariano Rajoy ha vinto le elezioni promettendo di sapere come risolvere la crisi. In più è conscio che un ulteriore arretramento dell'economia spagnola potrebbe provocare reazioni popolari bellicose e pericolose, per cui ha rifiutato ripetutamente di chiedere aiuti europei, respingendo le pressioni di Bruxelles e della cancelliera Merkel. Il compromesso trovato nell'ultimo Eurogruppo limita al settore bancario sia gli aiuti sia i conseguenti impegni di risanamento e di austerità. Per questo è stato deciso di utilizzare il Fondo per le ristrutturazioni bancarie, entità tecnica del settore bancario diversa dall'esecutivo politico di Madrid. Vabbè, insomma, quanto dovremo dare noi? Questa è la domanda. Cari italiani, quanto pagherà l'Italia per la Spagna, che poi messa così sembra paga per la Spagna? Si paga per salvare l'euro, se si crede in questa cosa, altrimenti ognuno la può pensare come vuole. Sempre sul Corriere della Sera, piani europei, l'Italia pagherà almeno 48 miliardi, non per la Spagna e basta. Il fondo salva stati, l'intervento per Grecia e Portogallo, l'impatto di Madrid, questo è un calcolo che Stefania Tamburello fa. Per il Corriere le cifre: nel 2010 il sostegno dei paesi in difficoltà è costato finora all'Italia 3,9 miliardi, lo 0,3% del PIL. Nel 2011 la somma degli esborsi è salita a 9,2 miliardi, di cui 3,2, 1,6 ciascuno per gli aiuti a Irlanda e Portogallo. Ed il resto 6,1 miliardi di prestiti diretti alla Grecia. Insomma, aggiungi Spagna, poi si arriva a un totale di 48 miliardi, almeno da pagare per l'Italia. D'altronde, nel retroscena politico di Francesco Bei su Repubblica, pare che Mario Monti abbia detto questo: Merkel deve capire che è arrivato il momento di una svolta. Un weekend passato con il fiato sospeso da Mario Monti e il timore: nessuno è al riparo dal contagio, dopo la Spagna ci siamo noi. Tutti sono consapevoli su questo. Con l'accettazione del mega prestito europeo, Madrid si è aggiunta all'elenco di Grecia, Irlanda e Portogallo, paesi già in amministrazione controllata. È saltato così l'ultimo paese cuscinetto che ci separava dalla speculazione. I prossimi siamo noi, e un fallimento del piano europeo per le banche spagnole suonerebbe come una campana morto anche per il nostro paese. Ecco perché, implicitamente, la risposta alla domanda perché salvare le banche spagnole con questo sistema economico spagnolo, perché i prossimi, se no, saremmo noi. A proposito di Mario Monti oggi prende carta e penna e scrive a Repubblica. Ieri Eugenio Scalfari aveva fatto un editoriale in cui si parlava dei poteri forti. Si parlava tra l'altro di nomi e cognomi, faceva Eugenio Scalfari, cioè di alcuni poteri forti insediati nel governo stesso, facendo i nomi di Vincenzo Fortunato, vale a dire il capo di gabinetto di Palazzo Chigi, cioè del ministro dell'economia e finanze in realtà, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà e il ragioniere generale del Tesoro Mario Canzio. Queste tre persone erano additate da Eugenio Scalfari come tre persone di osservanza del governo Berlusconi e quindi nominate prima, e queste sarebbero per esempio persone che costituiscono i poteri forti contro Monti. Ebbene, oggi Mario Monti risponde: io i poteri forti a Palazzo Chigi e il diritto alla lealtà. Riguardo a questi tre nomi, scrive Mario Monti, sono creature di Gianni Letta, questa è l'accusa, e di Giulio Tremonti, questa è l'accusa di Eugenio Scalfari. Beh, quando ho nominato sottosegretario Catricalà e confermato nelle loro posizioni Fortunato e Canzio, non ero certo all'oscuro dei loro rispettivi percorsi di carriera, né di chi avesse avuto un ruolo decisivo nel valorizzarli in passato, ma si tratta di qualificati funzionari dello Stato, e nel decidere di avvalermi della loro collaborazione li ho valutati alla luce di quelle che mi sono parse le loro caratteristiche di competenza, integrità, autorevolezza nell'esercitare le funzioni, lealtà. Lealtà allo Stato, alle linee programmatiche del governo, non ad una mia parte politica che, come è noto, non esiste. Certo, le due posizioni al Ministero dell'Economia e Finanze rientrano nello spoil system, avrei perciò potuto modificarne a mia discrezione i titolari, magari per il fatto che il ministro che li aveva nominati non sempre aveva mostrato particolare rispetto per le mie tesi di politica economica o per la mia persona nel corso degli anni, ma non credo che sia questo il modo corretto di intendere lo spoil system. Devo cercare, è stata la mia convinzione fin dall'inizio, di estrarre il meglio da ogni forza e di rendere compatibile ciò che in natura ha mostrato di non esserlo. Insomma, un Mario Monti che dice credo nella lealtà di queste tre persone che ho trovato a Palazzo Chigi, una l'ho nominata anche sottosegretario, e che non ho cambiato perché, pur sapendo che sono state nominate dal precedente governo, non ho avuto finora alcun motivo, ancora Mario Monti, per rammaricarmi delle scelte che ho fatto nel novembre scorso. Ho anzi apprezzato le loro qualità e il loro spirito di servizio. Insomma, Mario Monti che parla e continua sul tema poteri forti. La politica invece, cari ascoltatori, è tutta concentrata sulle polemiche della RAI. Ma io vorrei avervi davanti, voi che ci seguite, centinaia di migliaia, fino a 2 milioni di ascoltatori, ma vi interessa davvero questo dibattito sulla governance della RAI? Carmelo Lauricella scuote già come tecnico dall'altra parte. Cioè, è davvero così interessante? Per carità, la RAI è importante, è un'azienda pubblica, il tema, la privatizzazione della RAI, ma è davvero interessante tutto questo tema, la scelta degli alieni, così sono stati definiti, no? Anna Maria Tarantola come presidente incaricato e poi Luigi Gubitosi, incaricato di essere il direttore generale della RAI, cioè due persone che di TV e di governance televisiva non si sono occupate. Una viene dalla Banca Italia, uno attualmente è amministratore delegato di Wind, ma insomma ha fatto scalpore, ha suscitato scalpore. Ora la polemica politica è, dopo aver fatto queste scelte, aver scelto gli alieni, come sono già definiti, Monti va davanti e scelga tutto il consiglio di amministrazione della RAI, cioè indichi tutto il CDA. Questo per esempio chiedono il Partito Democratico e l'UDC, cioè vada fino in fondo, vuole gli alieni, li faccia alieni fino in fondo per evitare che la politica si spartisca anche le nomine del consiglio di amministrazione. Tutto il problema delle nomine. Nomine RAI, vi interessa davvero? A me sinceramente c'è un dibattito, oggi Giuliano Ferrara sul Foglio, il tema dell'editoriale è questo. A me interessa francamente poco, ma forse è una colpa mia. Intanto sentiamo le informazioni sul traffico. Alle 7:47 minuti io vorrei raccontare quello che i giornali dicono sulla Nigeria, dove ci sono stati degli attentati, non passa ormai domenica dove per i cristiani che vogliono celebrare la messa non sia un pericolo di perdere la vita. Anche ieri una domenica di sangue, come viene definita in Nigeria, con alcuni kamikaze che sono entrati in azione, hanno preso di mira alcune chiese cristiane. E sulla Stampa l'articolo di Domenico Quirico, lo trovate a pagina 8, kamikaze in chiesa, cristiani massacrati dai Boko Haram. Boko Haram è questa organizzazione terroristica islamica che colpisce appunto le chiese. Domenico Quirico scrive: Ayos, l'assassino infanatichito dall'ardore per un dio inesorabile, era solo, ha guidato con calma l'auto imbottita di esplosivo fino alla Christ Chosen Charismatic Church, si stava lì celebrando la messa, sapeva che non avrebbe dato a quegli empi alcuno scampo. Quando l'auto esplosa, l'edificio è crollato, seppellendo i fedeli, 3 morti, 40 feriti, il bilancio purtroppo atrocemente provvisorio. A Biu, invece, nello stato di Borno, gli assassini dei Boko Haram, in 3, le armi in pugno, hanno dato l'assalto, anche qui mentre era in corso la messa. Quelle parole di fede erano per loro come morsi, hanno sparato alla gente atterrita che si gettava sotto i banchi. Poi sono fuggiti, indisturbati, anche qui il conto dei morti era provvisorio, 1 morto, 2 feriti in fin di vita. I Boko Haram, gli afro-taleban, si scanagliano la domenica, ormai quasi ogni domenica, con metodo, spietatezza, secondo una cadenza scellerata, le chiese, la messa, i cristiani del nord, martiri involontari di una guerra che ha lasciato dietro di sé 600 morti in un anno. Ormai è come una nebbia, pervade ogni cosa, mina il morale, non si disperde. La paura gli ha strappato la carne, anche i cristiani più miti cedono al grido delle furie che si fanno sirena, chiedono vendette. La potenza apparente del male sembra invincibile, è quanto vogliono gli assassini. Insomma, così inizia l'articolo reso conto di Domenico Quirico, che è uno dei massimi dei giornalisti che meglio descrivono le realtà africane, in questo caso la Nigeria, con questi kamikaze, ma anche sul Corriere della Sera Massimo Alberizzi, un altro attento osservatore di quello che succede in quelle parti del mondo. Un'altra domenica di sangue in Nigeria, l'ira dei fedeli, perché poi chiaramente ci sono i successivi, le reazioni, gli scontri con i musulmani, un paese dove ora il presidente teme, il presidente Jonathan, una sorta di secessione, visto che il nord è più a maggioranza musulmano, il sud a maggioranza cristiano. Una secessione che lo stesso presidente ha definito sarebbe un disastro umanitario come nel Biafra. Intanto notizie dalla Nigeria, invece, per chi anche segue le questioni del calcio, si è concluso felicemente, dopo uno spavento di 24 ore, la vicenda del rapimento del giocatore del Lecce, dell'Udinese, in prestito al Lecce, Obodo, che è stato liberato Era stato rapito in Nigeria, appunto, è stato liberato ieri dopo un blitz della polizia. Nessun riscatto pagato, avevano chiesto 150.000 euro alcuni rapitori comuni, della criminalità comune, ma è stato salvato. Voglio dare alcune notizie di cronaca che mi hanno colpito per chiudere. La prima, questa non è una bella notizia, la trovate sul Sole 24 Ore in prima pagina. Si spreca il 16% della spesa, cari italiani, eppure in tempo di crisi non dovrebbe essere così. Dai campi alla tavola si spreca un quintale di cibo a testa, così Marco Biscella. Ogni anno si perde mediamente quasi un quintale di cibo a testa, il 16% di tutto ciò che si consuma, uno scontrino dilapidato che vale 13 miliardi di euro. Tra le mura di casa una famiglia italiana in media butta nella spazzatura l'8% di quanto acquistato senza consumarlo. 42 chili a testa di media. Gli italiani, vuoi per tradizione contadina, in questo tra l'altro sono tra i più virtuosi, Cioè c'è di peggio. Per esempio, americani e inglesi sprecano una quantità di alimenti 3-4 volte superiore. Sta di fatto che lungo la filiera del cibo, dalla produzione, trasformazione fino al consumo, l'industria agroalimentare produce 6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari, di cui il 92,5% diventa poi spreco. Uno spreco che, come dimostra l'indagine Dar da mangiare agli affamati, realizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà e Politecnico di Milano, al 50% può essere recuperato e redistribuito ai poveri. Questa ricerca verrà presentata oggi. Ogni anno una famiglia butta in media più di 40 kg di cibo. Questa è la cifra che dobbiamo tenere in considerazione. Non finiscono i guai invece per il film, non il libro ma il film Gomorra. Ricordate, avevamo raccontato la vicenda di Matteo Garrone, che era stato anche sentito dalla procura di Napoli perché per girare il film, questo accusava almeno un pentito di camorra, bisognava pagare il pizzo alle persone coinvolte nella zona. Beh, oggi il giornale ci ritorna con Gianmarco Chiocci e Simone Di Meo, il pizzo per i ciak di Gomorra. E tirano in ballo anche Saviano, non si capisce. Saviano in imbarazzo tace, nuove accuse dopo le mazzette pagate dal regista Garrone. Un attore rintracciato dal giornale rivela auto, moto, vestiti, case, tutti gestiti dai clan. Cioè, se si voleva affittare una casa per il film bisognava pagare al clan, se si volevano prendere i vestiti. Questo racconta questa comparsa del film, che è stato rintracciato anche lui con un lungo curriculum criminale alle spalle. Tutti quelli che abbiamo incontrato erano parenti o amici di camorristi durante la lavorazione del film. Si voleva noleggiare un paio di stanze, si pagava la camorra, si voleva noleggiare le auto pure, fino a 500 euro al giorno. I vestiti venivano comprati tutti nei negozi intestati a padrini del posto. Insomma, questa la descrizione del film Gomorra, secondo questo attore che è stato rintracciato dal giornale. Chiudo col titolo della Gazzetta: Bell'Italia, ti vogliamo così, con la foto di Totò di Natale che esulta. 1-1 la prima partita, è andata bene, ora bisognerà ovviamente vincere, però intanto un buon esordio agli europei. Ed ora è tempo di giornale radio. Siamo qua allora, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Vogliamo parlare di Brindisi. È in carcere Giovanni Vantaggiato, che si è autoaccusato, ha confessato di essere l'autore della strage di Brindisi, nella quale è morta Melissa Bassi. Io voglio salutare l'avvocato difensore di Vantaggiato, Franco Orlando. Avvocato, buongiorno. Senta, intanto l'accusa nei confronti di Vantaggiato è di strage aggravata da finalità terroristiche. Ci può spiegare, lei l'ha capito il movente, cioè Vantaggiato perché ha fatto questo gesto? Guardi, Vantaggiato fin dall'interrogatorio durante il quale poi è intervenuta la confessione, ma anche dinanzi al GIP in sede di interrogatorio di garanzia, ha reso delle spiegazioni, ha cercato di rendere delle spiegazioni al suo gesto. Quello che è venuto fuori è il quadro di una personalità certamente molto, molto complessa. Rim- rimane la circostanza di una esasperazione fortissima, determinata da una serie di eventi che negli ultimi 10 anni avevano toccato la vita di quest'uomo, con particolare riguardo a dei furti subiti, delle estorsioni, l'incendio di 2 mezzi, un furto nell'abitazione, delle truffe. Quindi diciamo una che però, e questa avrebbe portato a un'esasperazione, però come si spiega un gesto del genere? Se tutte le persone esasperate facessero qualcosa del genere, guardi, è evidente che cercare una spiegazione in ciò che è irrazionale diventa difficile per tutti, si figuri per noi. Questo ritengo che sia un fatto assolutamente razionale, non può esservi una spiegazione di carattere logico. Rimane il fatto che, anche perché noi dobbiamo attenerci ai fatti, le nostre valutazioni, le mie valutazioni in questo momento, ma in generale, hanno poco significato. Ciò che è significante invece è quello che viene fuori, che emerge dalle carte del processo, e al momento tutto ciò che emerge è costituito dall'attività degli inquirenti e dalle dichiarazioni di Vantaggiato. Lui peraltro era definito dai giornali come una persona che ha mostrato sempre molto distacco, almeno all'inizio, freddezza, cinismo anche in quello. Questo è quello che hanno evidentemente riferito certa parte della stampa. Ma ritengo di poter dire, avendo vissuto questi momenti, che invece è esattamente il contrario, nel senso che vi è la sofferenza di una persona che ora dopo ora acquisisce consapevolezza delle irrazionalità del gesto, e quindi esattamente il contrario di quello che lei mi dice. Cioè mi sta dicendo che in realtà Vantaggiato si sta rendendo conto. Perché all'inizio venne descritto così, quando è stato preso anche all'inizio negava, prima di iniziare a confessare per ore ha detto ma no, ma che dite, guardi, io non c'ero. Credo che il fatto che la natura umana, l'uomo, sia portato a negare a volte anche l'evidenza, sia un fatto fisiologico, connaturato, è proprio un fatto tipico dell'uomo, il bambino che nega di aver rubato la caramella, insomma è evidente che in quel momento ha avuto l'istinto di negare, ma l'istinto che è durato, io le posso dire, meno di 2 ore, nel senso che senza essere stimolato in tal senso, ha reso confessione piena dei fatti già la notte del fermo. Senta, ma ha agito da solo secondo lei? Cioè è verosimile che abbia questa esasperazione, questo dice a meno Vantaggiato, ma che guardi, l'abbia portato... Le ribadisco il concetto. Il secondo me non può esistere, io non rendo valutazioni, io rispondo di fatti, e i fatti sono: Vantaggiato ha confessato e ha confermato in sede interrogatorio di aver agito da solo, ha reso particolari, quello che penso io è irrilevante. È vero che vuole scrivere alla famiglia di Melissa Bassi, che ha replicato non si permetta di scrivere? Sì, ho letto sulla stampa la risposta della famiglia di Melissa, anche questa assolutamente ragionevole. Il rispetto per il dolore degli altri è un qualcosa che non può essere intaccato da niente e da nessuno, ma è altrettanto vero che deve essere rispettato il sentimento di una persona che comprende la gravità di un gesto e ne chiede perdono. Io le posso dire che l'interrogatorio di garanzia davanti alla dottoressa Casciaro, al GIP Casciaro, sabato mattina è cominciato in maniera veramente drammatica. Le prime parole di Vantaggiato, peraltro abbiamo stentato tutti a comprendere perché erano rotte da un pianto a dirotto, sono state: io mi inginocchio, chiedo perdono, povere bambine, ha ripetuto. Ho capito, però avvocato, capisce, io per carità riferiamo questo dal punto di vista di cronaca, ma come si fa a provare anche solo vicinanza o rispetto, empatia per quello che lei ci sta dicendo? Cioè è facile dirlo, ed è un dato, è di cronaca che lei ci sta dicendo, però come facciamo a muoverci, come dire, a compassione per queste parole? Si tratta di muoversi a compassione, anche perché ritengo che nessuno stia chiedendo compassione o possa chiedere compassione dinanzi a un fatto di questa portata, è evidente questo, credo che sarebbe irrazionale pretendere compassione o attenzione sotto questo aspetto. Ciò che invece deve cominciare ad essere considerato da parte di tutti è la personalità di quest'uomo, anche perché evidente che la disquisizione sarebbe assolutamente lunga ed elaborata, ma la natura umana, l'assurdità, la stranezza della mente umana a volte determina comportamenti che apparentemente non hanno delle spiegazioni. La irrazionalità prevale su tutto ciò che invece dovrebbe essere logico, nel senso, è chiaro che se noi lo pensiamo a posteriori il gesto è assurdo, è insensato. Senta, ma quindi a questo punto scriverà una lettera, non scriverà, terrà conto del fatto che la famiglia non vuole una lettera, come si comporta? La cronaca dice che Vantaggiato ha riferito di questa intenzione. Vantaggiato davanti al GIP ha detto: voglio scrivere alla famiglia. È evidente che peraltro ha riferito queste parole in momenti che possiamo tutti immaginare che momenti sono, davanti ad un GIP, davanti a seguito di una confessione confermata anche in sede di interrogatorio di garanzia, quindi comprendete, ecco, queste le parole di quest'uomo. Io intanto la ringrazio, avvocato, buona giornata. Stiamo grazie a vedere a voi, come evolverà la vicenda. L'avvocato Franco Orlando e l'avvocato di Giovanni Vantaggiato, vale a dire il killer che ha confessato di essere il killer di Brindisi. Per lui, ripeto, l'accusa è strage aggravata da finalità terroristiche, perché secondo i magistrati ha sparso proprio il terrore anche per i primi giorni e per diverso tempo. Si è parlato appunto di un attacco, di mafia, eccetera, e quindi è contestato anche questa tipologia di reato. Noi, dopo la pubblicità e il meteo, parleremo di fisco, legalità e scuole. Ci sono delle iniziative dell'Agenzia delle Entrate regionali che coinvolgono scuole anche elementari. Una a Napoli ha fatto molto discutere, si intitola Uno scontrino per l'estate, con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate che hanno sensibilizzato una scuola elementare per dire ai bambini: quest'estate, quando andate a prendere il gelato, ricordatevi di chiedere lo scontrino, perché anche così si educa alla legalità. Ma ci sono altre iniziative. C'è per esempio in Piemonte l'Agenzia delle Entrate regionale ha fatto la fiscostrocca, la filastrocca del fisco, ve la faremo ascoltare. Oppure ci sono cartoni animati, tutti con l'intento di dire, educare, fare educazione civica ai bambini elementari per fargli capire che è importante pagare le tasse fin da subito. Iniziativa giusta? O come addirittura titolato qualche giorno fa Libero, arrivano i balilla del fisco, arruolati i bambini delle elementari. Diteci la vostra, 800 24 00 24, se volete via sms 349 238 6666. Con noi tra poco anche Oscar Giannino. Siamo qui allora alle 8:35 minuti, eccoci qua a parlare di questa iniziativa che il quotidiano Libero ha definito Arrivano i balilla del fisco qualche giorno fa. L'Agenzia delle Entrate con qualche scuola, per esempio a Napoli, la scuola elementare De Vito Piscicelli, la scuola Piscicelli, hanno fatto che cosa? L'iniziativa Uno scontrino per l'estate, cioè: cari bambini, quest'estate quando prendete il gelato ricordatevi di prendere lo scontrino, perché altrimenti non vi educhiamo alla legalità. Ma ci sono varie iniziative nelle varie regioni dell'Agenzia delle Entrate con le scuole elementari. Di questo vogliamo parlare intanto con il nostro Oscar Giannino, che è qui con noi. Buongiorno Oscar. Buongiorno a tutti. Saluto anche il professor Emiliano Brancaccio. Buongiorno professor Brancaccio e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Economista all'Università del Sannio di Benevento. Intanto io vorrei farvi ascoltare la fiscostrocca. Oscar, sai cos'è la fiscostrocca? Dai, vai avanti. Perché in Piemonte l'Agenzia regionale delle Entrate ha interpretato questa collaborazione con le scuole elementari per favorire la legalità, promuovere l'educazione civica tra i bambini, inventandosi la fiscostrocca. Tu fai parte della società e devi sapere ad ogni età che se tutto può funzionare, le tasse devi pagare. Sì, certo, lo capisco, che non conosci bene il fisco, perché sei ancora piccolino. Fiscus è un termine latino e vuol dire cesto, in cui ogni cittadino onesto versa il suo contributo in base al reddito che ha avuto. Un esempio? Paperone, che sappiamo è un gran riccone, molti soldi verserà per il bene della società. Al contrario, Paperino, che non ha il becco di un quattrino, pochi euro pagherà, ma ogni servizio avrà. Perché se pagare è un dovere e non fa certo piacere, abbiamo poi molti diritti che ci rendono meno afflitti. Hai capito, con i soldi, Oscar, delle tasse. Questa è la fisco strocca. Vuoi continuare a sentirla? Ognuno è garantito di essere sempre assistito. E se ti viene il raffreddore e vuoi andare dal dottore, io vorrei che in radio si potesse vedere lo sguardo che Oscar Giannino mi sembra il tritone. No, ma che tritone? No, ma che manca, mi sta mandando dei fulmini. Manca la prima strofa, lo Stato viene di notte e ti dà tante botte. Questo, ma stiamo scherzando, ragazzi. Cioè capisci? È una specie di... Tutti i regimi autoritari fanno così. Consenso dei bambini. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Addirittura. Però l'intento dell'Agenzia delle Entrate è quello di promuovere con l'educazione civica, cioè far conoscere il fisco. Anche l'Opera Nazionale Balilla. Quindi tu... Anche i pionieri del ridente sole del socialismo. Quindi tu sposi l'idea dei Balilla, no, del io fisco. Non posso dire dei Balilla. Dire ai bambini. Allora, ai bambini bisogna spiegare innanzitutto che esistono dei beni primari, la libertà. I miei figli cresceranno così. Non c'è dubbio. Se mi danno l'ora di educazione fiscale, io chiedo l'obiezione di coscienza. Come ci sono quelli che la chiedono per la religione? Questo è peggio. La religione dello Stato etico è l'autoritarismo del Novecento. Allora, tutti gli stati etici hanno detto: perché per chiedere di aver diritto a una tua tutela dei dati, che cosa hai da nascondere? Per essere un buon nazista non si aveva diritto alla tutela dei dati privati. Per essere un buon comunista, leninista, non si aveva diritto a avere un'individualità. Vogliamo forse che la nostra Repubblica Democratica, nata contro il fascismo, diventi questo? Ecco, è un dilemma legittimo, perché il pagare le tasse non può prescindere se il livello delle tasse sia giusto o meno. Questa è la differenza di fondo che in queste filastrocche manca. E allora ai nostri figli noi dobbiamo dare l'idea che devono crescere di saper discriminare ciò, uno Stato che funziona, da uno Stato come il nostro, predatore, vorace, una specie di rettiliano, un visitor. Io vorrei, professor Brancaccio, non so se adesso la questione fiscostrocca o filastrocca, poi c'è qualcos'altro che faremo sentire, la inquieta oppure con che predisposizione l'animo l'ascolta, cioè l'idea che alcuni bambini delle elementari ascoltino questa fiscostrocca per capire che è importante pagare le tasse e essere sensibilizzati su questo tema. Ma guardi, io in linea di principio non sono contrario a queste iniziative. A costo di prendermi gli strali di Giannino, io dico che per me queste misure, che potrebbero apparire un pochino orwelliane, si potrebbero persino estendere. Per esempio, se i bambini venissero incentivati non soltanto a verificare la fedeltà fiscale degli esercizi commerciali, ma fossero incaricati di chiedere, per esempio, ai genitori se nei loro luoghi di lavoro le norme di sicurezza del lavoro siano rispettate o se i contratti che i loro genitori stipulano siano regolari o si tratti invece di lavoro nero, ebbene questi bambini avrebbero un quadro anche più ampio e direi anche più drammatico del grado di illegalità che purtroppo caratterizza l'economia del nostro paese. Detto questo però, io penso pure che lo scopo delle istituzioni scolastiche debba essere quello di contribuire a formare dei cittadini che, diciamo, non siano semplicemente dei zelanti esecutori della legge dello Stato, perché in quel caso veramente cadremo in un clima alla Orwell. Piuttosto la scuola, io spero, mi auguro, che aiuti a formare cittadini rispettosi della legge, ma anche dotati di spirito critico nei confronti dell'azione dello Stato. Ecco, allora io a questo proposito, forse sono un po' troppo, diciamo, speranzoso e ottimista circa l'efficacia della scuola, però io penso e spero che gli insegnanti si sensibilizzino gli studenti magari sugli scontrini fiscali, ma per esempio cerchino di aiutare gli studenti a capire meglio gli effetti della politica tributaria e più in generale la coerenza della politica economica. Stiamo sempre parlando di bambini delle elementari. Sì, però ma guardi, non ci vuole molto, perché per esempio gli insegnanti potrebbero, come dire, fare un ragionamento e segnalare che gli aumenti della pressione dei controlli fiscali in fasi di crisi economica, come quella che stiamo attraversando da quasi 4 anni, contribuiscono ad accrescere le sofferenze bancarie, i fallimenti e le bancarotte. I bambini bancarotta la capiscono, secondo me. Ricordo i dati di Banca Italia. Nel 2011 il numero dei fallimenti aziendali avviati è salito a 12.000, sì, l'8% in più rispetto al dato 2010, che era già superiore del 20% al dato del 2009. E intendiamoci, a rischio di prendermi gli strali di contestazioni da Giannino, io in situazioni normali non mi preoccuperei tanto dei fallimenti in quanto tali. Mi preoccupo del fatto che in questa fase i fallimenti sono correlati alla disoccupazione. 11% di disoccupazione, forza lavoro inattivo ormai a 15 milioni di persone. Insomma, per chiarirci, se i bambini, i ragazzi avessero qualche cenno, sì, sull'esigenza potrebbe di essere una buona rispettare cosa la legge, ma anche sul grado di coerenza poi della politica tributaria ed economica, forse ci capirebbero un po' di più, capirebbero, no, anche perché i loro genitori... Devo dire questo, Oscar, tu contesti il modo in cui viene attuato questo progetto di educazione civica, eccetera, oppure contesti proprio il fatto di parlarne di queste cose, l'impostazione? Ma come posso contestare il fatto di parlare? È giusto che se ne parli. In realtà, quello che adesso ha detto il professor Brancaccio, e io lo condivido integralmente, vorrei anch'io una scuola capace di formare dei cittadini, poi ognuno ha il suo punto di vista, ma che gli dia degli strumenti in grado di essere un miglior guardiano e giudice di come il pubblico e anche il privato, cioè il complesso dell'economia, diciamo, mette a reddito o meno le possibilità di ciascuno e contribuisce a estendere oppure a intaccare i patrimoni di ciascuno. Questo dovrebbe essere l'ideale della scuola pubblica, e in quello quindi c'è una capacità critica di capire. Le tasse si pagano? Certo, le tasse si pagano quando arrivano a rappresentare il 54% del PIL legale? No, vuol dire che lo Stato va fermato. Questo lo capisce un bambino delle elementari? Forse un bambino delle elementari bisogna iniziare a dire: quando vai a prendere il gelato, al bambino delle devi prendere lo scontrino. Bisogna metterlo in condizione alla fine del ciclo elementare di saper fare una banale, elementare, appunto, operazione di interesse composto che quasi nessuno degli adulti italiani è in grado più di fare nel nostro analfabetismo di ritorno. E questo è il motivo per cui non riesci a renderti conto se la tua banca, lo Stato, il tuo cliente, il tuo fornitore o il tuo datore di lavoro ti frega. Perdonami, questo è, siccome viene dalla mia, vedo gli studenti all'università, una banale interesse composto, iniziano a tossicchiare. Quindi questo si fa nelle scuole dell'obbligo, ecco. Adesso, quindi, come vede, professor Brancaccio, non c'è nessuna strada. Quello che mi fa sorridere e preoccupare è il fatto che lo Stato ritenga nella sua campagna per accrescere il gettito di radicare in questa sua comunicazione a 360 gradi, di iniziare con i bambini piccoli a dire magari tra poco denunciate il vostro papà se non porta lo scontrino. Il concetto è un po' questo, infatti sulla scuola elementare dice: dunque, quest'estate quando compri il gelato, il giornalino o tanto altro ancora, siamo ancora al punto che si chiede al bambino non di denunciare il papà, se non lo rilasciano puoi ricordarlo tu al negoziante distratto. L'unilateralità di questa operazione è che a un bambino ovviamente mancano gli strumenti. Certo. Se gli dici lo Stato ha sempre ragione, lui tenderà a crederci. Se invece gli dici... Ma forse in questo caso gli stai dicendo a un bambino di 8 anni, quando devono dare uno scontrino. Al bambino di 8 anni è un'informazione... banale. Caro bambino di 8 anni, preferisci un mondo in cui ci sia più lavoro o meno? Vedrai cosa ti risponde. Ecco, questo è di lì bisogna cominciare. Preferisci un mondo in cui ci sia papà sia meglio o stia peggio? E lì vedrai come ti risponde. Se tu gli dici, gli parli solo, perché poi alla fine questo è prende lo scontrino, lo Stato, è lo Stato che dice: bambino, oh, qui la cosa fondamentale che deve andare di bene è meglio avere le tasche sempre piene, sono io, sono io, capisci? Paperino e paperone applicato allo Stato. Paperone e paperino non è male nella fiscostrocca. Il traffico, poi li sentiamo ancora qualcos'altro, E allora, dopo la fiscostrocca, vi voglio presentare invece, sai chi sono PAG e TAX? PAG e TAX. Tax, sono due protagonisti del fumetto, di un altro fumetto, un cartone animato che l'Agenzia delle Entrate ha fatto sempre per le scuole. Pag e tax. Certo, c'è chi c'ha Capitan America e c'è chi c'ha Pag e tax. Pag e tax nel paese delle regole. Salve, siamo Pag e tax e siamo qui per spiegarvi le regole civili. Ehi, tax, ma che sono ste regole civili? Vedi, Pag, fin dai tempi più antichi, gli uomini hanno sentito l'esigenza di riunirsi in gruppi, in comunità, condividendo le proprie risorse per far fronte a bisogni collettivi, come procurarsi il cibo, trovare riparo, difendersi, tramandare le conoscenze. Ai ai ai ai. Giusto, altrimenti sai che confusione. Così è nato lo Stato. Un insieme di persone che abitano in un territorio e condividono. È un falso storico. No, contesta storicamente. Ma certo, ma questa è l'ideale di una società russoiana. È nato così lo Stato. Lo Stato è prevaricazione e forza da sempre. Ma puoi raccontare ai ragazzini che lo Stato nasce da un libero patto sociale? Ma no, ma non è per Hobbes. La storia l'ha studiata o no, Milan? Ma ti pare che ci sono le libere comunità che fanno i patti? Ma dico, ma dove? Fammi sentire Paghetta. La visione Durkheim. Tutti gli stati autoritari raccontano false storie. Balle. Gli obblighi fiscali, sentite. Per far sì che tutto funzioni, ognuno deve pagare una certa quota in denaro. Oh, che viene chiamata tassa. Che non è la moglie del tasso. Ma il modo più intelligente e giusto per contribuire al funzionamento del nostro paese. Vedono da soli. Fatemi sentire Mauro da Brescia, ci ha chiamato all'800240024. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ho aperto la radio, ho sentito solo una parte, quindi potrei aver dimenticato qualcosa. Però questa fiscostrocca mi sembra allucinante, in quanto mi pare che lo Stato vigliaccamente non è in grado di assolvere i propri compiti e tenta di nascondersi dietro dei bambini dicendo ma fatelo voi. Ma adesso però Mauro non è che sono i bambini mandati crudi, a fare le cose, cioè, ma senta, tradotto in termini crudi, Giannino annuisce, non è che stanno arruolando i bambini. Il succo è quello, è qualcosa che non si riesce a fare e si dice ma fatelo voi, così è come se mi volessi lavare la coscienza. È pietosa. Allora, può essere contestabile, ma io non la vedo come dire lo Stato non ce la fa, arruola bambini. Poi si può discutere se si sbaglia o no. Stiamo cercando di spiegare a dei bambini delle cose. Sbagliando va bene, ma non è che li stiamo arruolando per fare il lavoro. Stiamo riempiendo la testa di fregnacce. Mi stanno dicendo che lo Stato nasce dal fatto che le libere comunità dicono mettiamo insieme le risorse. Questa è un'opinione, ma sarebbe una storia del socialismo realizzato. Peccato che lo Stato nasce da prevaricazione e forza. So, professor Brancaccio, presidente Schmidt, il monopolio della forza legale. Mi venga in soccorso, ma perché, professore. Perché le rivoluzioni, quelle liberali, quelle socialiste, nascono dall'idea di spezzare le catene? Perché c'era uno Stato onnisciente, onnipresente, assolutista, di cui le tasse erano da sempre l'arma. Ma io quello che contesto è che li stiamo arruolando. La storia della libertà. Professor Brancaccio, uno Stato più equilibrato, capace di stare più a casa parli sua. Parli più forte. No, io taccio. Viva Brancaccio, lasciamo parlare da Brancaccio. No, ma li stiamo arruolando, professore. No, non è che Allora, sicuramente lo Stato è esercizio della forza, questo c'è poco da dire, e le modalità di formazione dello Stato sono obiettivamente quelle che segnalava Giannino, c'è poco da dire, però sono i liberali che talvolta parlano di patto sociale, di queste sciocchezze. Vorrei ricordarlo, perché non sono i marxisti, ecco. Detto questo, io mi permetto di avere fiducia nella capacità critica dei bambini, nel potenziale critico dei bambini. Faccio un esempio. Al posto, diciamo, di queste fiscostrocche un po' unilaterali, io ricordo che il Sole 24 Ore pubblicò una cosa molto carina, si chiamava L'economia di Zio Paperone. Non so se ve lo ricordate. Come no? Ecco, questa pubblicazione era molto interessante perché in effetti tentava di spiegare ai bambini, diciamo in modo molto elementare, ai bambini e ai ragazzi, i fondamenti dell'economia politica, cioè essenzialmente qualche relazione di causa ed effetto tra politica ed economia. Ecco, secondo me muoversi in quella direzione consente di formare dei cittadini rispettosi della legge, ripeto, perché la legge va rispettata, ma anche dotati di senso critico nei confronti dell'azione. Ma io su questo sono d'accordo. È andata male, Milan, non litighiamo con Brancaccio. No, ma è la cosa, professor Brancaccio, molto più spesso di quanto non creda. è quello che dico anch'io, cioè non vedo un'iniziativa così sconvolgente, no, però, magari dire, le modalità. Diciamo, lo Stato dovrebbe occuparsi di formare mentalità più critiche, questo è il punto. Meno unilaterale, cioè si puzza da lontano di campagna demagogica. Soprattutto in questo momento. Peraltro l'iniziativa c'è da vari anni, però in questo momento magari la fiscostrocca, il capitan Pag e Tax c'è da adesso. Ecco, questo è il modo in cui viene tradotta, ma la collaborazione Agenzia delle Entrate Scuole Elementari c'è da tempo. Io però devo fare una domanda a Oscar Giannino. Oscar, qui lo devo chiedere perché tu lo sai bene, sai bene dove vogliamo andare. No, con questa premessa è sicuramente una trappola. Sai bene. No, ma che trappola? Ma tu lo sai già, il tuo amico Giuseppe Cruciani sta lanciando una campagna, la gente dice Oscar Giannino presidente. Per favore, parliamo Oscar di cose Giannino serie, in politica. Parliamo di cose. Tu dimmi solo una cosa. Ma non ti dico niente su questo tema. Dobbiamo parlare di bambini, su. Se. Non è che io poi ti chiedo la prima intervista e tu mi fai dire il tuo portavoce che a quel comunista di Milan le interviste non si danno. Vogliamo parlare di cose serie, su. Stiamo già parlando di induzione di incapaci, come questo messaggio ai ragazzi. Vabbè, quindi non mi rispondi. Oscar Giannino Forpresi. Ripeto, parliamo di cose serie. Il pubblico di Radio 24 c'ha delle ore in cui c'è un tipo di programmazione, c'ha delle altre ore in cui parliamo di cose serie. Su. Vabbè, no, niente. Fatemi sentire Raul da Modena. Buongiorno Raul. Buongiorno. Dica. Io volevo riferirmi al signor Oscar Giannino, guardi, le faccio su una premessa veloce. Io sono di sinistra, però ascolto la vostra radio tutti i giorni e sono molto d'accordo in quello che lei dice, signor Oscar Giannino. Però c'è un problema, che noi 150 miliardi di evasione fiscale all'anno le abbiamo sempre, quindi qualcuno le ha fatte 150 miliardi di evasione, non le faccio certo io che prendo 1200 euro al mese di stipendio. E quindi qualsiasi cosa che serva per far capire alle nuove generazioni che le tasse le devono pagare tutti, perché se le paghiamo tutti ne paghiamo meno tutti, è importante. È qui che Oscar Giannino la contesta. Ho 30 secondi, Oscar. No, Raul, no, dai, ho 30 secondi. Ho capito, ho 30 secondi. Comunque, la mia risposta è che il mio modo è, insieme ai giovani ricercatori Bruno Leone, abbiamo messo a disposizione gratis di tutti, come il contatore del debito pubblico, un modello perché ciascuno possa calcolare le tasse, le imposte che ha pagato e pagherà per tutta la vita. In cambio, cosa lo Stato gli darà e cosa gli avrebbe dato la media dell'Unione Europea? Basta andare a www.costolostato.it, ciascuno si può fare il suo conto. www.costodellostato.it e vuol dire cesto, in cui ogni cittadino onesto versa il suo contributo in base al reddito che ha avuto. Un esempio? Paperone, che sappiamo è un gran riccone. Molti soldi. Basta mandare in. Sai che c'è scritto che ci dice di importi, di imparare la memoria? Il terzo Reich all'arco di trionfo è un dovere. A domani al passo dell'Oca.